Capitolo 16. Venezia. 1 agosto 1546. In questa terra, che non è terra, i colori attaccano la visione con ripetuti sussulti e l'abbigliamento onirico degli umani pare fatto apposta per disorientare il viandante, sotto i colpi di bizzarre forme geometriche, ciprie e seni scoperti, oblunghi copricapo o acconciature fantastiche e incredibili calzature. Provocano allucinate emozioni e sobbalzi ad ogni calle, accompagnate a scoppi di ira improvvisi che tanto cari appaiono agli abitanti unici di questa città d'altri mondi. In questa terra che non è terra, la potenza delle donne muta il corso degli eventi, impone torsioni repentine alla stanca ragione maschile, conferma nella mia mente una sensazione profonda, assaporata più volte altrove, sulle loro virtù superiori, frutto di risorse cui ci è negato l'accesso. In questa terra che non è terra, carico di curiosità e di tensione che allenta i sensi, mi accingo a essere ricevuto da colei la cui fama, più di ogni altra, sembra confermare la giusta via di tali considerazioni. Donna Beatrice Mendez de Luna. Mi attende in uno dei suntuosi salotti di casa Miquez. Sete pregiate rivestono divani di tenui ricami, arazzi arabescati alle pareti, insieme a scene di vita fiamminga di Bruegel il Vecchio, una xilografia di Maestro Dürer, un ritratto dolcissimo di Tiziano, la grande celebrità locale, e cassettoni intarsiati dagli stancabili maestri falegnami veneti, primi a svegliarsi e ultimi ad andare al riposo ai rintocchi della Marangona. Nero di occhi brillante mi scruta. Maturità dirompente di femmina ispanica incorniciata in acconciatura corvina con lievi striature bianche. Vezzo raffinato che non tradisce timore. Denti bianchissimi incastonano l'ambiguo, muto sorriso che m'accoglie. Studiati movimenti la sollevano dal divano a venirmi incontro, allungando felina il collo scolpito da perle d'oriente. M'inchino. Ludovic de Schalidecker, il tedesco, che tanta impressione ha destato in Johao, nipote prediletto, finalmente. Tedesco, ma con nome di fiammingo, e che nome? Il primo nemico dell'autorità religiosa e civile di Anversa, nei giorni affannosi della mia partenza da quelle terre operose e avide. Che bizzarre congetture suscitano i nomi, non trovate? Gli uomini paiono esservi così ferocemente attaccati, ma basta essere passati per più di un battesimo e una terra per scoprire come sia utile, piacevole addirittura averne tanti. Siete d'accordo? Sfioro con le labbra la mano ricoperta da anelli. Sto sudando. Senza dubbio, donna Beatrice, ho imparato a riconoscere gli uomini dal coraggio di cui sono capaci e mai più dai nomi che portano. Il mio piacere di incontrarvi è grandissimo. Il coraggio. Ben detto, messer Ludovico. Va bene, no, Ludovico? Ben detto? Prego, sedete qui accanto a me. Anch'io ero ansiosa di conoscervi e infatti eccoci. Davanti a noi, su un basso tavolino decorato, un vassoio d'argento dagli ampi manici a forma di serpenti intrecciati, con sopra un bricco fumante di un infuso di erbe aromatiche. La fama che vi precede è quantomeno enigmatica, sapete? Riprende, versando l'infuso in grandi tazze di porcellana. Non mi dilungo, ma le notizie sul vostro conto, giuntemi da mio nipote, mi hanno a dir poco sorpreso. Le vostre frequentazioni, presenti e passate, l'alone di mistero che emanate e i sentieri che state battendo formano una miscela di indubbio interesse. Sono molti, credetemi, i motivi che mi hanno spinto a insistere per questo incontro. E il primo, spero non me ne vorrete, consiste nel raccomandarvi la più grande cautela di cui siete capace, in ogni mossa, parola o anche soltanto allusione. Vi prego di non considerare eccessiva questa mia premura. La osservo cambiare postura, sopra la morbida imbottitura del divano che ospita entrambi, portare la tazza alla bocca con entrambe le mani, sorseggiare il liquido caldo e profumato. Trattengo il respiro. Non dubitate, ne terrò il massimo conto, ma permettete di chiedervi a cosa sia dovuto tale esplicito invito alla riservatezza, così pressante da alludere a pericoli nascosti e sempre in agguato. Ripone la tazza sul vassoio. È proprio così. Lasciate che vi fornisca alcuni ragguagli su come funzionano qui le cose. L'enorme potere di questa città, ponte tra Oriente e Occidente, si fonda non sull'acqua su cui folli e geniali fuggiaschi la concepirono, e tantomeno sul crogiuolo d'artisti letterati che l'affollano. Da secoli ormai, i signori di questa laguna intessono un'intricata ragnatela di poteri e di spie, guardie e magistrati a cui poco o nulla sfugge. Raffinati equilibri sostengono le relazioni che queste genti trattengono con re e diplomatici di ogni regione, con teologi, chierici e le più alte autorità di ogni confessione e con i detentori di ricchezze, coltivazioni o prodotti che terra conosca. Mentre al suo interno si dispiega l'inestricabile rete di controllo su ciascuno che l'attraversi o la abiti per qualche tempo. Vi è una polizia per la bestemmia e una per le prostitute, quella per i lenoni e un'altra per i rissaioli. C'è chi controlla i traghettatori e altri che sorvegliano gli armaroli. Nessuno è in grado di dire chi comanda qui, ma tutti devono temere i mille occhi che scrutano queste calli sospese sull'acqua. Pesi e contrappesi garantiscono la potenza della Serenissima, la sola cosa che conti davvero, in un gioco di specchi che rinviano immagini fuorvianti, dove ciò che appare non è, e ciò che è reale spesso si nasconde dietro pesanti tendaggi. Prendete il Doge, ad esempio, venerato dal corteo di imbarcazioni e dal popolo, dalla sua nomina fino alla morte. Ebbene, egli non conta niente. Non può nemmeno aprire le missive a lui inviate senza il consenso preventivo dei consiglieri preposti a quella funzione. Per non dire poi delle menti raffinate che convogliano l'odio delle genti basse, il rancore sordo che cova da sempre verso se stesse, dividendole in fazioni e creando mille pretesti e mille giochi perché queste abbiano a sfogarsi tra loro, con spargimenti di sangue tanto cruenti quanto immotivati e mai contro coloro che stringono il bastone del comando. Moltitudine di prostitute, colori sgargianti, stuoli d'artisti e piaceri del cibo, mio Ludovico, servono a celare spie e sbirri, giudici e inquisitori che palmo a palmo scrutano incessanti. L'occhio mi cade nella scollatura. Fatico ancora ad abituarmi al generoso taglio veneziano. Vampate di caldo, osservo con apprensione il fondo della tazza. Una poltiglia di foglie nere. Sento le ossa molli. Affondo nel divano. Sale una risata immotivata. Lo trovate divertente? Perdonatemi, ma questa gradevole situazione non s'accorda con il vostro fosco racconto. Ho visto guerre e massacri e sono poco avvezzo alle armi sottili del potere. Non sottovalutatele. Ciò che intendevo dire è che laddove l'autorità non è nelle mani di un solo principe, ma distribuita tra varie magistrature e corporazioni, è possibile intraprendere le manovre più ardite. A patto, però, di saper riconoscere e gratificare tali poteri quando è necessario. Questa è la libertà che vige in Venezia. Non il suo ordinamento, che tanti decantano, ma che nessuno capisce. Si fa più vicina. Un effluvio d'essenze m'inebria. Vedete, noi prestiamo il denaro. Da sempre gli stessi che ci blandiscono, presto o tardi cominciano a braccarci. Noi abbiamo imparato a fare lo stesso. Leghiamo a noi uomini importanti, sosteniamo attività e interessi vitali, decidiamo quando e come allentare i cordoni della borsa. I mercanti di Rialto ci sono debitori, e così gli armatori dell'arsenale, famiglie patrizie del consiglio e casate che forniscono vescovi e magistrati alla Repubblica, sempre inclini allo sperpero, devono a noi buona parte dello sfarzo di cui si ammantano. Per costoro il nostro denaro è importante come l'aria che respirano. Devono riflettere prima di contrastarci. D'altra parte, noi dobbiamo sapere che il sodalizio non durerà troppo a lungo. La frase del nipote. Avere un bagaglio leggero. Sorride. La corruzione è un filo sottile che pesi e contrappesi mantengono teso. Questa è la cautela di cui vi parlavo. Un'espressione preoccupata le scivola sul volto. Bisogna sapere da chi guardarsi, quali sono le forze che possono rompere l'equilibrio. C'è questa nuova razza di inquisitori, gente scaltra e fanatica, sospinti dal cardinale Carafa, pericoloso come nessun altro. Da decenni sempre nel posto giusto, ha promosso la Congregazione del Sant'Uffizio, che il Papa ha istituito per lui e dal 42 ne tiene le fila, allevando una muta di segugi feroci, devoti e incorruttibili. È da costoro che bisogna guardarsi. Fiutano la preda, la puntano e la incalzano finché non cade. Donna Beatrice riesce a comunicarmi tutta l'inquietudine, una paura antica che sembra accompagnarla dalla notte dei tempi. Ho un brivido. Conosco la razza. La paura è l'arma con cui soggiogano gli uomini. La paura di Dio, del castigo e di quelli come loro. Non possiamo radunare eserciti per combatterli, ma spingere perché siano altri a farlo. C'è questo partito di cardinali, avversi all'Inquisizione, gli spirituali, ma purtroppo si tratta di gente poco avvezza allo scontro, mentre gli altri serrano i ranghi. Questa è l'unica mossa di rilievo che sono riusciti a fare. Estraggo dalla manica il volumetto. Annuisce. Il beneficio di Cristo. L'ho letto con grande attenzione e sono d'accordo con voi. Forse non basta a tenere a bada i cani, ma una forza di cui nemmeno gli spirituali sono consapevoli. Esiste un'ampia fauna di preti, dottori, chierici, letterati e anche uomini importanti della Chiesa che può accogliere queste idee. Paolo III è un imbelle, ma se il prossimo Papa fosse uno spirituale, magari quell'inglese stimato da tutti, Reginaldo Polo, allora l'aria cambierebbe. Ancora un sorriso. Mettetevi in affari con noi, Don Ludovico. Mi stringe una mano tra le sue. Che coppia fenomenale! Joao Miquez irrompe nella sala. Duarte Gomez lo segue. Dentature smaglianti e rumore di stivali. Allora, Beatriz, hai circuito a dovere il nostro invitato? Guarda che lui, al contrario del tuo nipote pervertito, predilige le donne. Donna Beatrice ha la risposta pronta. Ma si circonda di ragazzine nel fiore degli anni, a quanto mi hai detto. Mi guardo intorno, spaesato. L'imbarazzo mi sovrasta. Smettetela, vi prego. Miquez si esibisce in un ampio inchino e Gomez scoppia a ridere. Mi sottraggo al tiro incrociato. Amici, poche persone mi hanno accolto con familiarità e cordialità pari alla vostra. Le raffinate intuizioni di cui siete capaci non smettono di sorprendermi, aprendomi affascinanti orizzonti. Il marchio che grava sulla vostra gente mi appare ora in tutta la sua inconsistenza. Bisogna aver camminato il mondo, in lungo e in largo, per poterlo dipingere con tale chiarezza. Vi sono grato della fiducia che mi accordate. Attendo ancora che torniate a onorare la mia tavola, Joao. Quanto a voi, donna Beatrice, ciascuna delle ragazze che frequentano il caratello dovrebbe rinascere 3 volte prima di acquisire un fascino pari al vostro. Joao e Duarte applaudono divertiti. Il mio commiato non può che essere di poche parole. Considerate il nostro primo affare già contratto.